cosa fare, non è questo il mio problema. Tutte impervie son le strade che conducono a te. Notte e giorno si confondono perché il tempo va in stallo e faccia lotta col tormento che mi porta via da te. Non c'è niente da capire, navigo in un'illusione che i miei confusi sentimenti possano arrivare a te. Ma se li è portati il vento e ora sono nel mio limbo, e allora scrivo, scrivo le mie invisibili parole. Sembra quasi che il mio mondo stia crollando, sto franando nei ricordi e non mi rispondi più. Certezze nella nebbia e il mio cuore alla deriva. Tutto questo perché per te non esisto più. Mai promesse e io non l'ho chieste mai. Mi nutrivo di speranze, benvenuto nella realtà. Un po' alla cieca si procede e l'amore porta spesso il dubbio. Ma dov'è quel paradiso che vedo in fondo agli occhi tuoi? Non c'è niente da capire, navigo in un'illusione che i miei confusi sentimenti possano arrivare a te. Ma se li è portati il vento e ora sono nel mio limbo, e allora scrivo, scrivo le mie invisibili parole. Sembra quasi che il mio mondo stia crollando, sto franando nei ricordi e non mi rispondi più. Certezze nella nebbia e il mio cuore alla deriva. Tutto questo perché per te non esisto più. Sembra quasi che il mio mondo stia crollando, sto franando nei ricordi e non mi rispondi più. Certezze nella nebbia e il mio cuore alla deriva. Tutto questo perché per te non esisto più.